Capitolo 34. La nave dei sogni giunge in porto. Al chiarore di un'alba ventosa, che avanzava in ondate di luce dorata sul golfo, una cicogna, durante il suo volo dal paese delle stelle della sera, scorse la baia di Four Winds. Stringeva sotto l'ala una creaturina addormentata. La cicogna era stanca e si guardò attorno con inquietudine. Sapeva di essere vicina alla meta, ma non la vedeva ancora. Il grande faro bianco sulla scogliera di Arenaria Rossa aveva le sue attrattive, ma nessuna cicogna dotata di buon senso vi avrebbe deposto un tenero neonato. La vecchia casa grigia tra i salici, sulla riva fiorita del ruscello, appariva più promettente, ma non del tutto adatta. La maestosa dimora verde che sorgeva poco più in là era palesemente fuori discussione. Infine la cicogna si rianimò. Aveva visto il posto che faceva per lei. Una casetta bianca, protetta da un fitto bosco di abeti, con un pennacchio di fumo azzurro che usciva dal comignolo della cucina. Era proprio la casa ideale per un neonato. La cicogna sospirò soddisfatta e si posò senza scosse sul tetto. Mezz'ora dopo, Gilbert si precipitava a bussare alla porta della camera degli ospiti. Gli rispose una voce insonnolita e subito dopo si affacciò sulla porta Marilla, pallida e spaventata. «Marilla, Anna ti manda a dire che è arrivato un giovanotto. Non ha bagaglio, ma ha l'aria di volersi fermare a lungo». «Per amor del cielo», disse Marilla con voce sorda, «Gilbert, mi stai dicendo che è già tutto finito? Perché non mi avete chiamata?» «Anna non ha voluto disturbarti inutilmente. Ho chiamato l'infermiera solo 2 ore fa. Questa volta non abbiamo avuto preoccupazioni». «Gilbert, il bambino vivrà?» «Ma certamente. Pesa 4,5 kg e senti come canta. I polmoni li ha buoni, vero?» «L'infermiera dice che avrai i capelli rossi. Anna è furibonda e io sono arci contento». Fu una giornata meravigliosa per la casetta dei sogni. «Il sogno più bello si è avverato», disse Anna pallida ed estasiata. «Oh, Marilla, non osavo sperare dopo quell'orribile giornata dell'estate scorsa, ma da allora ho vissuto nell'angoscia. Però adesso è tutto finito». «Questo piccino prenderà il posto di Joy», disse Marilla. «Oh, no, no, no, Marilla, non potrà mai. Il mio ometto adorato ha il suo posto nel mio cuore, ma la piccola Joy ne ha uno tutto per sé e nessuno potrà portarglielo via». «Se fosse viva, avrebbe più di un anno adesso. Farebbe i primi passi e incomincerebbe a balbettare. Mi sembra di vederla, Marilla. Oh, ora so che il capitano Jim aveva ragione quando diceva che Dio avrebbe fatto in modo di farmi riconoscere la mia piccina nell'altro mondo. L'ho capito durante quest'anno. Ho seguito la sua crescita di giorno in giorno e di settimana in settimana. E sarà sempre così. La vedrò cambiare di anno in anno, e incontrandola la riconoscerò, perché non sarà un'estranea per me. Oh, Marilla, guarda le dita dei piedini, sono perfette, vero?» «Ci mancherebbe altro», disse Marilla tagliando corto. Ora che tutto si era risolto per il meglio, Marilla aveva ritrovato se stessa. «Oh, lo so, ma del miracoloso come sono rifinite nei minimi dettagli, persino nelle unghiette, e le mani, guarda che mani, Marilla, hanno tutta l'aria di essere mani», ammise Marilla. «Guarda come mi si aggrappa al dito, sono sicura che già mi riconosce. Piange quando l'infermiera lo porta via, sai? Oh, Marilla, credi proprio che avrai capelli rossi?» «Beh, per ora capelli non ne ha, né rossi né di altro colore», disse Marilla. «Se fossi in te, non mi preoccuperei finché non sarà il momento». «Ma Marilla, capelli ne ha? E come? Non vedi la peluria morbida sulla testina?» «Comunque l'infermiera dice che gli occhi sono castani e la fronte è esattamente come quella di Gilbert». «E ha delle orecchie che sono un amore, dottora cara», disse Susan. «Per prima cosa gli ho guardato le orecchie. I capelli ingannano, il naso e gli occhi cambiano e non si sa come diventeranno, ma le orecchie restano uguali per tutta la vita e non ci si può sbagliare. Guardi come sono fatte bene e che bella attaccatura hanno. Non dovrà mai vergognarsi delle orecchie del bimbo, dottora cara». Anna si riprese con rapidità e trascorse giornate felici. I conoscenti venivano a salutare il piccino, inchinandosi davanti alla maestà della nuova vita, come accadeva ancor prima che i magi dell'Oriente si inginocchiassero davanti alla mangiatoia del re di Betlemme. Leslie, che andava lentamente abituandosi alle nuove condizioni di vita, stava attorno alla culla come una splendida Madonna dall'aureola d'oro. La signorina Cornelia lo accudiva con l'abilità di una madre di Israele. Il capitano Jim teneva il neonato nelle grandi mani abbronzate, quasi vedesse in lui i figli che non aveva mai avuto. «Come lo chiamerete?» chiese la signorina Cornelia. «Il nome l'ha scelto Anna», rispose Gilbert. «James Matthew, come gli uomini migliori che ho conosciuto». «Senza escludere i presenti», disse Anna con un'occhiata maliziosa a Gilbert. Gilbert sorrise. «Non ho mai conosciuto Matthew a fondo. La sua timidezza era un ostacolo per noi ragazzi, ma sono d'accordo con te che il capitano Jim è uno degli esseri più eccezionali a cui sia stata data l'anima. È felicissimo che abbiamo chiamato come lui il nostro piccino. A quanto pare non c'è nessun altro James tra i suoi parenti e amici». «Beh, James Matthew è un nome che si porta bene e non stanca», disse la signorina Cornelia. «Mi fa piacere che non gli abbiate affibbiato uno di quei nomi altisonanti di cui ci si vergogna in vecchiaia. Ah, Glenn, la moglie di William Drew, ha chiamato il figlio Bertie Shakespeare. Ah, bella trovata, vero? E mi fa piacere che per scegliere il nome non abbiate dovuto penare. Per certa gente è un incubo. Quando nacque il primogenito di Stanley Flagg, discussero tanto sul nome di questo e quel parente da dare al bambino che il piccolo restò 2 anni senza nome. Poi arrivò un fratello e li chiamavano il grande e il piccolo. Alla fine si decisero a chiamare il grande Peter e il piccolo Isaac come i due nonni e li fecero battezzare insieme. Fu una gara chi urlava di più. Conosci la famiglia scozzese dei McNabb che sta a Glen? Hanno 12 maschi e sia il maggiore che il minore si chiamano Neil. Così nella stessa famiglia ci sono un Neil grande e un Neil piccolo. Probabilmente non sapevano più che nome inventare. Ho letto da qualche parte, disse Anna ridendo, che il primo figlio è una poesia e il decimo una prosa pedestre. Forse per la signora McNabb il 12° era semplicemente la rifrittura della stessa storia. Poveretta! «Beh, le famiglie numerose hanno i loro vantaggi», disse la signorina Cornelia con un sospiro. «Io sono rimasta figlia unica per 8 anni e desideravo tanto un fratellino o una sorellina. La mamma mi diceva sempre di pregare il Signore, e io pregavo, credi a me. Beh, un giorno zia Nelly mi disse, Cornelia, su in camera della mamma c'è un fratellino per te, puoi salire a vederlo. Volai su per le scale, felice ed emozionata». Poi l'anziana signorina Flagg tirò su il piccolo per farmelo vedere. Dio, Anna, non sono mai stata tanto delusa in vita mia. Sai, io avevo pregato sempre il Signore di darmi un fratello di 2 anni più grande. La delusione è durata molto? Chiese Anna ridendo. Beh, per un bel pezzo tenni il broncio alla divina provvidenza e per settimane non volli più vedere il fratellino. Nessuno seppe mai perché, dato che non ne parlai mai. Poi incominciò a diventare carino, mi tendeva le manine e mi affezionai a lui, ma mi rassegnai alla sua presenza solo quando una compagna di scuola venne a trovarmi e mi disse che secondo lei era spaventosamente piccolo per la sua età. Mi infuriai e le gridai che i bambini belli lei non sapeva riconoscerli e che il nostro era il più bello del mondo. Da quel momento lo adorai. La mamma morì prima che compisse i 3 anni e io gli feci da madre e da sorella. Povero ragazzo, non è mai stato forte e morì poco dopo i 20 anni. Avrei dato qualsiasi cosa, Anna cara, per farlo restare in vita. La signorina Cornelia sospirò. Gilbert era uscito e Leslie, che aveva cullato il piccolo James Matthew cantandogli la ninna nanna, lo depose addormentato nella culla e andò via. Appena fu certa di non poter essere udita, la signorina Cornelia si sporse dalla sedia e disse in tono di complicità: «Anna cara, ho avuto una lettera da Owen Ford ieri. Ora è a Vancouver, ma vuole sapere se potrò tenerlo a pensione per un mese. Sai cosa significa questo? Beh, spero che facciamo una cosa giusta». «Oh, noi non c'entriamo affatto. Non possiamo impedirgli di venire a Four Winds se vuole», si affrettò a precisare Anna. Non le piacevano i sussurri misteriosi della signorina Cornelia, che la facevano sentire complice di un intrigo. Poi si arrese stancamente. Leslie non deve sapere che viene qui, disse. Se lo scopre in anticipo, sono certa che andrebbe via subito e comunque intende andarsene in autunno. Me l'ha detto l'altro giorno. Va a Montreal per studiare da infermiera e rifarsi una vita. Oh, beh, Anna cara, disse la signorina Cornelia, annuendo con aria saggia. Sarà quel che sarà. Noi due abbiamo fatto la nostra parte. Il resto lo affidiamo alle mani divine. Capitolo 35. Politica a Four Winds. Quando Anna poté nuovamente uscire, era in corso la campagna per le elezioni generali del Canada. Gilbert, da conservatore convinto qual era, trovò impossibile sottrarsi alle insistenze di chi lo voleva come oratore nei raduni locali del partito. La signorina Cornelia non approvava che si occupasse di politica e lo disse ad Anna. Il dottor Dave non l'ha mai fatto. Tuo marito si accorgerà del suo errore, credi a me. Gli uomini per bene non dovrebbero mai immischiarsi nella politica. Allora si deve lasciar governare solo mascalzoni? Chiese Anna. Sì, a patto che siano conservatori, disse la signorina Cornelia, cavandosela con l'onore delle armi. Gli uomini e i politici sono tutti della stessa pasta. Ma i liberali sono parecchio più impastati dei conservatori. Però, liberali o conservatori che siano, consiglio al dottor Blythe di stare alla larga dalla politica. Finirà per candidarsi e trasferirsi a Ottawa a metà dell'anno, lasciando andare in malora la professione. Oh, non facciamoci la testa prima del tempo, disse Anna. Poi ci si sente male davvero. Guardi il mio piccolo Jem, invece preferirei si scrivesse con la G. Non è un incanto? Che braccine paffute ha! Ne faremo un buon conservatore, io e lei, signorina Cornelia. Pensa a farne un buon uomo, disse la signorina Cornelia. Sono perle rare. Bada però che non diventi un liberale, eh? Quanto all'elezione, possiamo ritenerci fortunate di non vivere dall'altra parte della baia. Laggiù l'aria è elettrica in questi giorni. Tutti gli Elliot, i Crawford e i McAllister sono sul piede di guerra e pronti a sparare. Qui da noi c'è calma e tranquillità, visto che gli uomini sono pochi. Il capitano Jim è liberale, ma secondo me se ne vergogna perché non parla mai di politica. Non c'è il minimo dubbio che ancora una volta i conservatori otterranno una larga maggioranza. La signorina Cornelia si sbagliava. La mattina successiva all'elezione, il capitano Jim si recò alla casetta per dare la notizia. Il microbo della faziosità politica attacca con virulenza persino i vecchi pacifici e il capitano Jim aveva il colorito acceso e gli occhi ravvivati dal fuoco della gioventù. Madama Blythe, i liberali vincono con una maggioranza schiacciante. Finalmente, dopo 18 anni di malgoverno conservatore, il nostro paese vedrà tempi migliori. Non le avevo mai sentito fare un discorso politico così di parte, capitano Jim. Non credevo che potesse essere tanto velenoso, disse Anna ridendo, anche se quel risultato non la mandava in visibilio. Proprio quella mattina il piccolo Jim aveva pronunciato il suo primo ghe ghe ghe. Che importavano il comando e il potere? L'ascesa e la caduta delle dinastie, la disfatta dei liberali o dei conservatori di fronte a quell'avvenimento miracoloso. Era da parecchio che accumulavo veleno, disse il capitano Jim con un sorriso quasi a volersi scusare. Credevo di essere tiepido come liberale, ma quando è arrivata la notizia che avevamo vinto, ho scoperto di essere liberale fino al midollo. Sa che io e mio marito siamo conservatori. Oh, beh, è l'unico difetto che avete, Madama Blythe. Anche Cornelia è per i conservatori. Venendo da Glen sono passato da lei per darle la notizia. Oh, non sapeva di correre un grosso rischio. Oh, sì, ma non ho resistito alla tentazione. E come l'ha presa? Ah, relativamente bene, Madama Blythe, relativamente bene. Ha detto: la divina provvidenza manda ai popoli, così come alle persone, periodi di tribolazione. Era da anni che voi liberali avevate freddo e fame. Sbrigatevi a scaldarvi e a mangiare, perché non resterete a lungo al potere. Beh, Cornelia, le ho detto io, forse la divina provvidenza giudicherà che il Canada abbia bisogno di un periodo di tribolazione particolarmente lungo. Ah, Susan, ha sentito la notizia, i liberali hanno vinto. Susan, Era appena entrata, seguita dalla solita scia di profumi di buona cucina. Davvero? Disse con suprema indifferenza. Beh, governo liberale o conservatore che sia, a me il pane riesce sempre uguale. Dottora cara, se c'è un partito che farà piovere prima della fine della settimana, salvando l'orto dalla rovina totale, allora Susan voterà per quello. Intanto, vuole venire a dare un'occhiata alla carne per il pranzo? Mi sembra molto dura e forse sarà meglio cambiare anche il macellaio, oltre al governo. Una sera, una settimana più tardi, Anna andò a piedi al faro per chiedere del pesce fresco al capitano Jim. Era la prima volta che si allontanava dal piccolo Jem. Per lei era una tragedia. E se piangeva? Se Susan non capiva quel che voleva? Susan era calma e tranquilla. Lo conosco quanto lei, dottora cara. Eh sì, ma non hai esperienza di neonati. Io da bambina ho badato a 3 coppie di gemelli. Quando piangevano non esitavo a somministrare olio di menta piperita oppure olio di ricino. È strano come prendevo alla leggera i bambini e i loro problemi. Oh, beh, se il piccolo Jem dovesse piangere, gli passerei una borsa dell'acqua calda sul pancino, disse Susan. Sì, ma l'acqua non troppo calda, disse Anna allarmata. Si chiese se non era il caso di rinunciare alla passeggiata. Non si preoccupi, dottora cara. Susan non è donna da bruciare un piccino. E poi a piangere non ci pensa nemmeno, guardi. Infine Anna riuscì a staccarsi dal piccolo e trovò piacevole la passeggiata fino al faro tra le ombre lunghe del tramonto. Nel salotto non c'era il capitano Jim, ma un altro uomo, un bell'uomo di mezza età, dal mento forte e rasato che ad Anna pareva di non avere mai visto. Tuttavia lo sconosciuto prese a parlarle come se si conoscessero da tempo. Non c'era nulla di scorretto nelle sue parole o nei suoi atteggiamenti, ma ad Anna seccava il tono di chi dà per scontata una certa familiarità. Gli diede risposte gelide e telegrafiche. Per nulla intimidito, però, l'uomo continuò a parlarle per parecchi minuti, poi si congedò e andò via. Anna fu certa di aver scorto un lampo di malizia nel suo sguardo e le diede fastidio. Chi era quell'individuo? Le ricordava vagamente qualcuno, ma era certa di non conoscerlo. Capitano Jim, chi è l'uomo che è appena andato via? Chiese non appena il vecchio rientrò. Marshall Elliot, rispose il capitano. Marshall Elliot, esclamò Anna. Oh, capitano Jim, non è possibile. Ma sì, la voce era la sua. Però non l'ho riconosciuto e sono stata, oh, molto scortese con lui. Oh, capitano Jim, perché non me l'ha detto? Deve essersi accorto che non l'ho riconosciuto. Non l'ha detto di proposito, per giocarle uno scherzo. Non si preoccupi se l'ha trattato male, si sarà divertito un mondo. Sì, finalmente Marshall Elliot si è tagliato barba e capelli. Il suo partito ha vinto le elezioni. Nemmeno io l'ho riconosciuto quando l'ho visto per la prima volta. Era a Glen nella bottega di Carter Flagg la sera dopo le elezioni e aspettava notizie con gli altri. Verso mezzanotte è arrivata la notizia per telefono. Avevano vinto i liberali. Marshall si è alzato ed è uscito senza un'esclamazione né un applauso. Però ci hanno pensato gli amici a farlo e poco ci è mancato che facessero saltare in aria la bottega di Carter. I conservatori erano invece nella bottega di Raymond Russell. Là di gridare non se n'è fatto molto. Marshall è andato come un fulmine a casa del barbiere Augustus Palmer. Augustus stava dormendo, ma il putiferio che faceva Marshall pestando sulla porta l'ha tirato giù dal letto. Scendi in negozio, Gus. Devi fare un gran lavoro, ha detto Marshall. I liberali hanno vinto e prima dell'alba avrai sbarbato un vero liberale. Gus era furibondo, un po' perché era stato svegliato, ma soprattutto perché è conservatore. Allora si è rifiutato di lavorare di notte. Farai quel che ti dico, piccolo mio, ha detto Marshall, o ti prenderò sulle ginocchia e ti darò una delle sculacciate che avrebbe dovuto darti tua madre. L'avrebbe fatto. E Gus lo sapeva, perché Marshall è forte come un toro e Gus è un ometto. Così ha ceduto. Si è tirato dietro Marshall in bottega e si è messo al lavoro. Va bene, ha detto, ti farò barba e capelli, ma se dici una sola parola sulla vittoria dei liberali ti taglio la gola con il rasoio. Chi avrebbe mai detto che quella pasta d'uomo di Gus potesse diventare tanto sanguinario? È la dimostrazione che la politica trasforma gli uomini. Marshall ha tenuto la bocca chiusa, si è liberato di barba e capelli ed è tornato a casa. Quando Quando la vecchia governante ha sentito i passi sulle scale, si è affacciata sulla soglia della camera per vedere se era lui o il garzone. E quando ha visto sul ballatoio uno sconosciuto con una candela in mano, ha incominciato a urlare come un'ossessa e poi è svenuta. Per farla rinvenire hanno dovuto chiamare il dottore. Ed è solo da un paio di giorni che riesce a guardare Marshall senza mettersi a tremare come una foglia. Il capitano Jim non aveva pesce. Quell'estate usciva raramente in mare con la barca e non faceva più le lunghe passeggiate sulla costa. Trascorreva gran parte delle giornate seduto alla finestra rivolta verso il mare. Guardava il golfo, appoggiando sulla mano la testa sempre più bianca. Anche quella sera restò seduto a lungo, in silenzio, immerso nei ricordi, ed Anna non osò disturbarlo. Infine indicò l'iride che campeggiava in cielo a occidente. «È bello, non è vero, Madame Blythe? Ma vorrei che avesse visto l'alba stamattina. Era meravigliosa, meravigliosa. Ho visto mille albe sorgere su quel golfo. Ho fatto il giro del mondo, Madame Blythe, a farla breve non ho mai visto niente di più bello di un'alba estiva sul golfo. Non si può scegliere l'ora per morire, Madame Blythe. Quando il grande capitano dà l'ordine di levare l'ancora bisogna andare, ma potendo scegliere me ne andrei quando la mattina arriva dal mare. Tante volte l'ho guardata e ho pensato che sarebbe un gran dono lasciare la vita sulla scia di quella radiosa luce bianca, verso il mare ignoto della nostra ultima destinazione. Credo, Madame Blythe, che laggiù ritroverei la mia Margaret. Il capitano Jim aveva parlato spesso ad Anna di Margaret, dopo la prima volta in cui le aveva raccontato la sua triste fine. Da ogni sua parola traspariva l'amore per lei, quell'amore che con gli anni non si era attenuato. Ad ogni modo, quando verrà il mio turno, spero di andarmene in fretta e senza soffrire. Non credo di essere un vigliacco, Madame Blythe. Più di una volta ho guardato in faccia la morte senza paura, ma l'idea di una lunga agonia mi angoscia e mi terrorizza. Lasci stare le tristezze, caro capitano Jim, lo implorò Anna con un nodo in gola, accarezzando la mano bruna, una volta tanto forte e ora indebolita. Se lei ci lascia, come faremo? Il capitano Jim sorrise dolcemente. Oh, ve la caverete bene, bene davvero, ma spero che non dimenticherete questo povero vecchio, Madame Blythe. No, non credo. Chi è della razza di Giuseppe non dimentica i confratelli. Ma il ricordo non sarà doloroso. Mi piace pensare che gli amici ricorderanno con piacere e non con dolore. Tra non molto la mia Margaret mi chiamerà per l'ultima volta. Sarò pronto a rispondere al suo richiamo. Le dico questo perché c'è un piccolo favore che volevo chiederle. Il povero secondo resterà solo. Il capitano allungò la mano in un gesto affettuoso verso la grande e morbida palla dorata immobile accanto a lui sul sofà. Il secondo si sgomitolò con un rauco suono di soddisfazione. A metà tra le fuse il miagolio, tese le zampe in aria, si voltò su se stesso e tornò a rannicchiarsi. Sentirà la mia mancanza quando io partirò per il lungo viaggio. Non sopporto l'idea che resti a patire la fame come prima che lo trovassi. Madame Blythe, se dovesse succedermi qualcosa, darà un tetto e un boccone al secondo? Oh, certamente. Ecco, solo questo mi preoccupava. Al suo piccolo Jem toccheranno le poche cianfrusaglie che mi restano. Me ne sono già occupato, ma non voglio vedere lacrime in quegli occhi così belli, Madame Blythe. Può darsi che resti qua giù ancora per un bel pezzo. Un giorno, l'inverno scorso, lei ha letto una poesia di Tennyson. Mi piacerebbe ascoltarla ancora una volta, se vuole recitarla per me. E mentre il vento di mare soffiava sui loro volti, Anna ripeté con voce chiara e sommessa i versi del meraviglioso canto del cigno di Tennyson. Oltre la barra. Il vecchio capitano scandiva il ritmo con la mano scarna. «Sì, sì, Madame Blythe», disse al termine, «è proprio così. Non era un marinaio, mi dice lei, però ha saputo mettere in versi quello che un vecchio marinaio prova. Nemmeno lui, come me, voleva la tristezza degli addii, Madame Blythe, perché staremo bene, io e i miei, oltre la barra».